2 gennaio del giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 2 gennaio. Eccoci nell'anno nuovo. Che pranzo ieri! Quanti dolci e liquori e rosoli e pasticcini di tutti i colori e di tutti i sapori! Che bella cosa è il Capodanno e che peccato che venga così di rado! Se comandassi io, vorrei fare una legge perché il primo dell'anno capitasse almeno un paio di volte al mese e ci starebbe anche la sora Matilde, la quale ieri mangiò tanti biscottini che stamani ha dovuto pigliare l'acqua di Janos. Fine del 2 gennaio.